Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Jules Légime di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard, 1953, traduzione di Ena Marchi. Jules Légime. Era il 1907, circa. Il piccolo e rotondo Jules, a Parigi per la prima volta, aveva chiesto all'alto e magro Jim, che conosceva appena, di farlo entrare al Bal des Cazars. E Jim gli aveva procurato un invito e l'aveva accompagnato a scegliersi un costume. Fu mentre Jules rovistava con calma tra le stoffe e sceglieva un semplice costume da schiavo che nacque l'amicizia di Jim per Jules. Si rafforzò poi durante il ballo, in cui Jules se ne stette quieto, con gli occhi sgranati, pieni di humor e di tenerezza. L'indomani ebbero la loro prima vera conversazione. Non c'erano donne nella vita parigina di Jules e lui ne avrebbe voluta una. In quella di Jim ce n'erano parecchie. Gli fece incontrare una giovane musicista. Gli inizi parvero favorevoli. Jules fu un po' innamorato per una settimana e anche lei. Poi Jules la trovò troppo cerebrale e lei lo trovò ironico e placido. Jules e Jim si videro tutti i giorni. Ciascuno insegnava all'altro fino a tarda notte la sua lingua e la sua letteratura. Si mostravano le loro poesie e traducevano insieme. Conversavano senza fretta e nessuno dei due aveva mai trovato ascoltatore più attento. Ben presto i clienti abituali del caffè attribuirono loro, senza che lo sapessero, delle abitudini speciali. Jim introdusse Jules nei caffè letterari frequentati da celebrità. Jules ebbe successo e Jim ne fu contento. Jim aveva un'amica, in uno di quei caffè, una graziosa donnina disinvolta che alle alte teneva testa ai poeti fino alle 6 del mattino. Dispensava con condiscendenza i suoi brevi favori. Conservava in ogni circostanza una libertà fuori dalle regole e uno spirito rapido che coglieva nel segno. Fecero qualche uscita a tre. Jules era sconcertato da lei, che lo trovava carino ma un po' tonto. Lui la giudicava notevole ma terribile. Lei portò per Jules un'amica sempliciotta, ma Jules la trovò sempliciotta. Insomma, Jim non riuscì a far nulla per Jules. Lo esortò a cercare da solo. A Jules, intralciato forse dal suo francese ancora imperfetto, andava sempre male. Jim disse a Jules: «Non è un problema di lingua». E gli espose alcuni principi. «Tanto varrebbe prestarmi le vostre scarpe o i vostri guantoni da box», disse Jules. «È tutto troppo grande per me». Jules, contro il parere di Jim, prese contatto con delle professioniste, senza trovarvi soddisfazione. Ripiegarono sulle traduzioni e sulle discussioni. Jim a Monaco. Fu in quel periodo che la madre di Jules, piuttosto anziana, ancora in gamba, venne dall'Europa centrale a trovare il figlio a Parigi. Fu un tormento per Jules. Lei gli passava in rivista la biancheria e voleva che non mancasse neanche un bottone. Portò Jules e Jim a cena nei migliori ristoranti, ma desiderava che fossero entrambi in redingote e cilindro. Uno sforzo notevole per Jules. La madre ripartì. Tre mesi dopo, in una sera di pioggia, Jules improvvisò una cena per sé e per Jim nelle due camere ammobiliate dove viveva. Jim, aprendo casualmente il forno della stufa di ceramica, vi trovò il cilindro di Jules, poggiato lì e ricoperto da un sottile velo di fuligine. Jules dichiarò soddisfatto: «Là non mi ingombra e la fuligine lo protegge». Jim rispose: «Io non sono vostra madre, Jules». Mangiavano in certi piccoli bistrò. I sigari erano il loro unico lusso. Ciascuno sceglieva il migliore per l'altro. Frequentavano il Concert Mayol e la Gaieté Montparnasse, dove a quell'epoca si esibiva Colette. Jules parlava lungamente a Jim del suo paese e delle ragazze del suo paese. Ne amava una, Lucie, alla quale aveva invano chiesto di sposarlo. Per questo se n'era andato a Parigi. Adesso, dopo 6 mesi, ritornava da lei. «Ce n'è un'altra», disse Jules. «Gertrude. Ha una vita libera e un bel bambino. Mi capisce, non mi prende sul serio. Eccola». Jules tirò fuori dal portafoglio una fotografia di Gertrude, distesa, nuda, su una spiaggia, incorniciata da un'onda che si allungava a lambirla, col figlio di un anno anche lui, nudo, a cavalcioni sul sedere materno, lo sguardo rivolto al largo, quale Eros dall'alto di un contrafforte. «Ce n'è ancora un'altra, Lina, che amerei forse se non amassi Lucie. Guardate, è così». E sul tavolo rotondo di marmo disegnò con lenti tratti di matita un viso di donna. Jim, mentre continuavano a parlare, guardò quel viso, poi disse a Jules: «Parto con voi». «Per vederle?» «Sì». «Bravo», disse Jules. Jim cercò di comprare il tavolo, ma il padrone del bar non volle. O li comprava tutti e 12 in blocco o niente. Le tre belle. Per preparare il terreno, Jules arrivò 8 giorni prima di Jim a Monaco, la città dove aveva trascorso 2 anni accanto a quelle 3 donne. Prese in affitto per Jim 2 grandi stanze in casa di brava gente e annunciò alle 3 amiche l'arrivo di Jim, facendone a ognuna un ritratto così diverso che a confrontare il proprio con quello delle altre nessuna di loro si raccapezzava. Jules, appena Jim arrivò, lo presentò a Lina, che aveva saputo la storia del tavolo. Con grande sorpresa da parte di Jules, prima ancora di aver terminato i dolci del tè, Jim e Lina, una bella creatura maliziosa, si trovarono d'accordo sui seguenti punti. A. Jim somigliava poco alla descrizione che Jules ne aveva fatto a Lina. B. Lina non somigliava più di tanto al disegno del tavolo rotondo. C. Si piacevano assai reciprocamente, ma per risparmiare tempo a Jules e a loro stessi, dichiaravano concordemente che il previsto colpo di fulmine non ci sarebbe stato. «Come invidio la chiarezza e la rapidità delle vostre reazioni», disse Jules. Quanto a Lucie e Gertrude, Jules le fece scoprire a Jim tutte e 2 insieme, in occasione di una cena nel locale più moderno della città. Quando si furono tolte i mantelli da sera, le 2 donne apparvero nella loro diversità e sedettero a un tavolo di legno chiaro, che fu subito coperto da una tovaglia e da bicchieri stravaganti. Sulle labbra di Jules errava un sorriso felice e timido quando disse agli altri 3 che li aveva nel cuore. Tacquero tutti, senza nessun disagio. «Jules», pensò Jim ad alta voce, «come fate a riunire 2 donne così diverse, così...» Non finì la frase. Il silenzio pronunciò per lui la parola «belle», e se la sentirono. Jules arrossì di piacere. Stava per rispondere. Gertrude lo fermò alzando la mano e disse: «Jules è il nostro confidente, ci mette in scena. Ha un'immaginazione fertile, la pazienza di un angelo. Ci fa entrare nei suoi romanzi, ci consola, ci prende in giro, ci fa la corte. Non pretende niente da noi. Dimentica solo una cosa, se stesso». «Che bell'elogio», disse Jim. «Così quando ci chiama noi veniamo», aggiunse Lucie rialzando leggermente la testa. Jules raccontò nella sua buffa maniera il fiasco che era stato l'incontro con Lina, che le altre 2 avevano già saputo da Lina per telefono. «Ma certo», disse Gertrude, «Lina e il signor Jim non può andare. Lina è una bambina viziata. Al signor Jim questo non piace». «Che cosa gli piace?» chiese Jules. «Vedremo», disse Lucie impassibile. Per la seconda volta il suono grave della sua voce colpì Jim. Provava una sorta di disagio a star seduto fra quelle 2 donne. Avrebbe voluto poter guardare continuamente ciascuna delle 2. Tutto cominciava come un sogno. Ben presto, con pieni poteri decisionali, Jules propose che, per abolire una volta per tutte i signore, signorina e signora, si facesse il brindisi della fraternità con il suo vino preferito e che, per evitare il gesto tradizionale troppo visibile di incrociare le braccia, i piedi dei bevitori si toccassero sotto il tavolo. Così fu fatto. Trasportato dalla gioia, Jules scostò i suoi quasi subito. Quelli di Jim rimasero per un momento accostati a un piede di Gertrude e a uno di Lucie, che per prima scostò piano il suo. Lucie era una bellezza gotica dal cranio allungato. Faceva ogni cosa con calma. Ogni istante acquistava con lei il pieno valore che lei stessa gli dava. Il naso, la bocca, il mento, la fronte erano l'orgoglio di una provincia che una volta lei aveva incarnato da bambina in occasione di una festa religiosa. Veniva da una famiglia della grande borghesia, studiava pittura. Gertrude aveva 30 anni, una bellezza greca, un'atleta nata. Vinceva senza allenamento le gare di sci, saltava dai trami in corsa fermandosi di botto senza sforzo, veniva voglia di conoscere i suoi muscoli. Aveva un figlio di 4 anni senza padre. Lei non credeva ai padri. Viveva con alti e bassi del suo mestiere di miniaturista. Di origine nobile, era stata messa al bando dalla sua classe, ma gli artisti la rispettavano e la vezzeggiavano. La serata scorreva come un fiume sinuoso. Le presenze cantavano, cominciavano a scoccare scintille. avevano in comune una relativa indifferenza per il denaro e la consapevolezza di essere costantemente fra le dita di Dio, che Gertrude avrebbe preferito chiamare il diavolo. Jules conversava piacevolmente. Verso le 2 del mattino, però, cominciò ad essere un po' troppo esperto in materia di anime e di situazioni e per reazione si lasciò andare a qualche battuta un po' spinta. Era forse il suo modo di rifarsi a parole in pubblico di quel che non osava rischiare in privato. Si fece beffe delle amiche, di se stesso e perfino un po' di Jim. E se avesse aperto loro le porte di un paradiso in cui lui, Jules, non era affatto sicuro di entrare? Ne aveva forse il presentimento? Al suo canto di omaggio e di gioia mescolava ora delle uscite graffianti che finirono per diventare penose quando si mise a dare diffusi consigli al Padre Eterno sul modo di risistemare il creato. Una cosa si faceva chiara. Jules era un amico delizioso, ma un amante o un marito inconsistente. Ancora una volta ne aveva il sospetto e quel flusso di parole era il suo modo di nasconderselo. «Jules si rovina la serata, è sempre così», disse accuratamente Gertrude nel momento in cui lui si era alzato per correre dietro alla sigaraia. Lucy scrollò il capo con indulgenza. L'ultimo quarto d'ora passò fra le divagazioni di Jules. Non lasciava parlare gli altri, insisteva su effetti sbagliati. I suoi amici soffrivano per lui e nasceva in loro 3 il desiderio di rivedersi senza di lui. Jim non conosceva ancora quel Jules, benché a pensarci bene ne avesse già percepito le tracce nel corso delle loro conversazioni a 2, in cui, lontano dalla presenza reale della bellezza, Jules si librava alto. Dopo aver riaccompagnato a casa Gertrude e Lucy, Jules e Jim camminarono in un grande parco. Era quasi l'alba. Jules era calmo ora. «Che serata straordinaria», disse Jim. «Che ardito bouquet formano insieme quei 2 fiori. Che amore sacro e che amor profano. Non credo di volerle rivedere insieme. Gertrude e Lucy?» «Vi capisco», disse Jules. «Quale delle 2 vi ha colpito di più?» «Sono ancora abbagliato», disse Jim, «e non ho fretta di saperlo». «E voi, Jules?» «Lucy, le ho chiesto di essere mia moglie e glielo chiederò ancora. Gertrude mi ha consolato quando Lucy mi ha respinto. Ho portato Gertrude e suo figlio su una spiaggia italiana. Mi ha dato un po' della sua forma, ma non il suo amore. Vedete, Jim, quando ho incontrato Lucy, ho avuto paura. Non volevo lasciarmi andare a quest'amore, ma lei si è ferita un piede durante una gita in montagna e mi ha permesso di curare quel piede che io fasciavo e sfasciavo. Avrei voluto che non guarisse mai». «Conosco la sua mano», disse Jim. «Chi non è guarito sono stato io», continuò Jules. «Quando si fu ristabilita osai offrirmi a lei come marito. Ha detto no, ma con tanta dolcezza che continuo a sperare». Gertrude. Jim eresse una barriera fra sé e Lucy. In capo a 15 giorni, dopo un corteggiamento che lei rese eroico e divertente, Gertrude si diede a Jim. Andava a trovarlo la sera 1 o 2 volte alla settimana. Era una creatura generosa. Intanto gli parlava della sua vita instancabilmente. La vedeva come un'interminabile partita in cui lei giocava contro Dio e perdeva. Jim scopriva, grazie a lei, un mondo del nord che gli era ignoto. Gertrude lo metteva a parte dei suoi problemi. Non dormirono mai, anche se a volte Jim si sentiva le palpebre pesanti di sonno. A lei piaceva la maniera che Jim aveva di ascoltarla, senza a sua volta prestargli grandissima attenzione. Andava pazza per Napoleone, sognava che si incontravano in ascensore, che lui le faceva un figlio e che poi non lo rivedeva mai più. «Che delizia il nostro Jules», diceva. «Non conosco un solo uomo che capisca le donne meglio di lui. Però quando si tratta di prenderci, ci ama troppo e non abbastanza. È spirituale e carnale controtempo. Ho cercato invano di aiutarlo. Lucy è per lui un idolo paziente. Jules è uno scopritore, un poeta. Ma come marito, la sua dolcezza peserebbe come un debito». Gertrude e Jim terminavano la notte con una passeggiata nei boschi all'alba. Affittavano un calesse e andavano a prendere il figlio di lei, un bel bambino di 4 anni che, seduto a cassetta accanto al vecchio cocchiere, imparava a tenere le redini e a lanciare i cavalli al galoppo, a far schioccare la frusta e a imprecare mentre il vento gli arruffava i capelli biondi. Dopodiché Jim tornava a casa e se ne stava a letto tutta la giornata a ruminare quel che Gertrude gli aveva raccontato. Jules fu tenuto al corrente da Gertrude e da Jim. Li vedeva quanto prima, ma separatamente. Con ognuno dei due parlava dell'altro e godeva a modo suo del loro piacere. Jules e Lucie. Jules organizzò una passeggiata romantica nei boschi con Lucie e Jim. Inventò una fiaba. Lucie era una fata e teneva per mano da una parte Jules, dall'altra Jim. Era una cosa infantile e deliziosa. La mano di Jim amava la mano di Lucie. Questa improvvisa familiarità li mise a disagio. Jules era disteso e non ebbe crisi di verbosità. Jim ricevette un pacchetto. Fu leggermente sorpreso nel riconoscere l'aristocratica grafia con cui era scritto l'indirizzo. Lucie gli scriveva: «Vorrei vedervi da solo. Potete venire da me domani sera verso le 10. Questa è la chiave del portone». In quella città la sera chiudevano i portoni e ogni inquilino aveva la sua chiave. Jim arrivò, per una volta in anticipo, e restò a camminare su e giù. Si sentiva quella chiave in tasca e pensava a Lucie e a Jules. Il piccolo salotto di Lucie era abbellito da un sobrio affresco che aveva dipinto lei stessa. Lucie accolse Jim con semplicità. «Non abbiamo mai avuto», gli disse, «l'occasione di incontrarci senza Jules. Desidero parlarvi di lui. Vi lega un'amicizia e io vorrei trovare in voi, Jim, un appoggio. Jules verrà nella mia città natale sperando che io gli permetta di chiedere a mio padre la mia mano. Non lo permetterò. Vorrei che in quel momento voi foste con lui. Non osa chiedervi di accompagnarlo». «Perché?» disse Jim. «Per via di Gertrude», disse lei. «Ci sarò», disse Jim. Lei gli offrì il tè. Tutto, gli oggetti squisiti, i gesti, la voce di lei, rispecchiava una tradizione calma e profonda, un'atmosfera di meditazione e di doveri accettati. Jim capì a che punto, anche senza tener conto della bellezza di Lucie, Jules avesse bisogno di lei. Non lo avrebbe sposato mai. Voleva forse fare il possibile per addolcire il dolore di Jules. Parlarono di lui, delle sue poesie. Lucie ne aveva alcune che aveva appena ricopiato per lui. Non potevano esserci manoscritti più belli. Soltanto allora, in quella forma, Jules sentiva le sue poesie venire al mondo. La scrittura di Lucie andava, senza fretta e senza correzioni, né applicazione apparente né difetti, dritta allo scopo, attraverso le infime valli della carta carbone. Jim provò invidia per Jules quando a una di quelle poesie Lucie diede anche la sua voce, pacata, come la sua scrittura. Tutto in lei era pacato. Perché Jules l'aveva guidato a quel santuario? Jim chiese a Lucie di mostrargli i suoi quadri. Glieli mostrò. Erano sobri e armoniosi. Jim non riusciva più ad andarsene. Si fece mezzanotte, prese commiato da Lucie con una sorta di devozione. Lucie rientrò in famiglia. Gertrude se ne andò in campagna con il figlio e un amico. Thank you.